14:47 minuti in diretta su Radio Stonata. Lui era Lorenzo Jovanotti con l'estate addosso. Ormai l'estate ce la siamo lasciate alle spalle, non addosso, proprio ormai si è pure scollata. Si può dire scollata? Boh, non lo so. Chiediamo subito se si può dire, perché mi sa che è preparatissima, alla nostra Sara Perico. Giusto, Sara? Ciao, buon pomeriggio. Sì, ciao, ciao a tutti. Sì, secondo me scollata si può dire. Ok, va bene. Io lo dico. già ce l'ha presentata prima Flavio. Lei è una delle collaboratrici di nonsoloturisti.it. In queste settimane li stiamo conoscendo un po' tutti. Ma io direi adesso proprio di intraprendere la chiacchierata con la nostra Sara. E partiamo subito dalla nostra domanda classica, quella che faccio a tutti i tuoi colleghi che finora si sono susseguiti qui su Radio Stonata: come ti sei avvicinata a nonsoloturisti.it? Com'è stato l'impatto, l'incontro? Sì, allora io faccio parte di Non Solo Turisti, del team, da non tanto, da gennaio, quindi è una cosa nuova di questo anno. Sono avvicinata, anzi faccio una premessa: io Non Solo Turisti faccio parte non soltanto come blogger, ma anche proprio nell'amministrazione del sito, del blog e di tutto quello che c'è dietro. Quindi dietro a tutte le mail, a tutte le cose ci sono quasi sempre io. E mi sono avvicinata perché ero in un mio periodo di cambiamento, quindi dovevo cambiare proprio dal punto di vista anche professionale, un po' tutto, dopo una serie di anche delusioni professionali. E quindi ho semplicemente risposto ad un annuncio lavorativo. Quindi io mi sono avvicinata così a questo mondo, ero anche abbastanza estranea al mondo del travel, nonostante mi piacesse viaggiare, però ero, diciamo, più che altro come mia cosa individuale, e quindi è stata una nuova scoperta in questo senso. Quindi viaggi, ti piace viaggiare, per lo fai per te, ma ora l'hai fatto anche diventare un lavoro, perché collabori quindi con Non Solo Turisti. E l'altra domanda è: il viaggio che ti è rimasto più impresso, quello che diresti ma lo devo rifare? Perché Flavio ci insegna che i viaggi non si rifanno, cioè ci ha fatto capire anche questo durante tutto questo anno e mezzo e più ormai di collaborazione con Flavio. Tu qual è il viaggio che vorresti rifare? Allora, parlando con Non Solo Turisti, un viaggio molto bello che ho fatto è stato quest'estate. Abbiamo fatto un tour di tutta l'Italia fino ad arrivare in Sicilia, e arrivati in Sicilia l'abbiamo girata completamente. È stato un viaggio che è durato 2 mesi in pratica, perché siamo partiti agli inizi di giugno e siamo tornati alla fine di luglio. Ed è stato veramente un viaggio molto bello, perché oltre a viaggiare, quindi a girare tutta l'isola della Sicilia, che è veramente fantastica, l'ho anche documentato, quindi ad ogni tappa ho fatto un articolo. Ho detto abbiamo perché li ho fatti uscire con il nome di Life Live, che è il mio progetto personale con mio fidanzato, che riguarda viaggi. E quindi in collaborazione con Non Solo abbiamo fatto questi articoli e abbiamo parlato di tutta la Sicilia, riguardante principalmente la costa, ed è stato veramente bello. Ed essendo stato comunque delle tappe magari di 2, 3, 4, 5 giorni, ecco, io lo rifarei con più calma, tipo 6 mesi in Sicilia, ecco. Quindi vuoi stare in vacanza per circa 6 mesi in Sicilia? Cioè, sei passata pure dalla Calabria, dato che sì, una vacanza, diciamo, una vacanza viaggio. Ma l'altra domanda, che non c'entra niente con tutto il resto: sei passata pure dalla Calabria o l'hai saltata nel passare in Sicilia? No, sono passata anche dalla Calabria. No, sono passata. Ci siamo fermati a Mandatoriccio Mare, ma soltanto proprio per 2 notti, quindi è stato proprio una toccata e fuga. Sì. Ok, vabbè. Quindi l'invito è: ritorna anche in Calabria, visitare anche la Calabria. Sai, parlando, chi ti parla dalla Calabria, quindi tira l'acqua al suo mulino. A proposito, quindi invece qui oggi ci racconti di un articolo che su nonsoloturisti.it, ci parli del, vediamo se riesco a sbagliare di nuovo come ho fatto prima fuori onda con te, del Parco dell'Avento. Ok, esatto, sì. Vai, promosso. Il okay. Parco dell'Avento. Sì, ci sono. Vado? Sì, vai, vai. No. Abbiamo il ritardo internazionale perché Sara si trova. Scusa, Sara, abbiamo il ritardo, spiega ai nostri ascoltatori, perché Sara si trova in America, solo per questo. Quindi se abbiamo un ritardo perché è così. Il parco dell'Abito, che si trova nell'entroterra. Sì, vai, esatto, tranquillo. Nell'entroterra di Levante. E sì, è la prima persona ad essere rimasta stupita di della bellezza di queste zone sono io, perché la mia conoscenza della Liguria era veramente molto limitata a quelle che sono le sue coste, che conosco, perché comunque la parte del Levante Ligure, nella zona, non so, da Sestri Levante, Lavagna, Portofino, quelle zone lì sono zone che ogni anno visito, ci passo almeno una decina di giorni a settembre, però nell'entroterra non c'ero mai stata. Uh-huh. E quindi sono rimasta molto stupita della bellezza dei panorami che si possono trovare in queste zone e soprattutto nelle tre valli che ho girato in lungo e in largo, che sono la Valle Sturla, uh-huh, la Valle d'Aveto e la Val Graveglia. Sono praticamente le tre valli che circondano questo parco, che è il Parco dell'Aveto, e sono di un patrimonio naturalistico eccezionale, sono veramente incontaminate, incredibili distese di verde, mm-hmm, e c'è di tutto, insomma, a partire da chi ama l'escursionismo. Sì, dimmi. No, ti stavo ascoltando e stavo annuendo proprio perché sono preso da questo tuo racconto, Sara. Ah, ok, perché io parlo, ma mi sembra di parlare da sola perché non sento, quindi io vado. Vai, Sara. Ok, guarda, allora, gli elementi che mi hanno colpito di più sono sicuramente ciò che riguarda l'escursionismo, quindi se tra i vari ascoltatori ci sono persone che amano l'escursionismo, è una zona sicuramente da visitare, in quanto oltre a essere fornita di tantissimi sentieri, ci sono proprio dei luoghi che con l'escursionismo si riescono ad apprezzare tanto. Mm-hmm. Io che non sono escursionista e che quindi sono molto più da mare, sono riuscita invece ad apprezzare una bellezza che non pensavo. Ad esempio c'è il Lago delle Lame, che è un piccolo lago di origine vulcanica, mm-hmm, che è uno specchio d'acqua di un colore incredibile, proprio un verde smeraldo, accecante quasi addirittura. Oppure il Lago di Giacopane. Mm-hmm. Sara? Sì, che è un lago artificiale, sì, ok, no, che è un lago artificiale, ma... però che anche qui crea uno spettacolo con le luci, con i riflessi, che merita veramente di essere visitato. Ok. Un altro aspetto indubbiamente importante che interessa un po' tutti è la parte gastronomica. Arriviamo al cibo, quello che ci sta a cuore a me e a Flavio, il cibo, comunque, sai, noi in questi nostri racconti il cibo, esatto, non deve mancare mai. Sta un po' a cuore a tutti. Sì, sì, è proprio un modo per entrare, secondo me, per entrare in contatto con qualsiasi luogo che si visita. E insomma lì diciamo che ci sanno fare, ci sono proprio dei piatti come, non so, i testaie, che sono proprio delle cose tipiche loro, delle sorte di, saprei neanche come definire, più simili forse a dei pani molto sottili che vengono conditi con il pesto. Il pesto è una cosa che ho assaggiato mai, che mi ha lasciato folgorata, che è la baciocca, che è una torta di patate buonissima. Uh-huh. Tutta una serie di ravioli conditi sia di magro che con ragù di carne, altrettanto ottimi. Uh-huh. Funghi a non finire, perché comunque il Parco dell'Aveto va a sconfinare all'interno dell'Emilia Romagna, infatti siamo arrivati anche a entrare nella provincia sia di Parma che di Piacenza, quindi dalla Liguria si passa leggermente alla Romagna, e come si sa la zona di Parma è una zona dove i porcini ad esempio se ne trovano tantissimi, quindi anche lì si trovano dei piatti molto, molto buoni con i funghi. Quindi un parco che veramente ti ha lasciato senza fiato. Ma ritornando, esatto, ritornando a parlare di Sicilia, tra i tanti messaggi che nel frattempo sono arrivati proprio mentre tu raccontavi, ci scrive Mary che ci dice, ripete proprio le tue parole, il viaggio che rifarei altre mille volte è quello di rientro in Sicilia. Cioè, guarda, cioè, perché pure lei immagino è siciliana, quindi come vedi, Sara, cioè, hai colpito. E poi... Sì, no, Sicilia è veramente incredibile. Sara, io ti ringrazio e immagino che ritornerai presto a ritrovarci, e spero che il collegamento non sia di nuovo dall'America, ma immagino in una parte dell'Italia, non so, una zona del nord Italia, più vicino, dai. Senz'altro, così almeno non c'è questo ritardo secolare. Infatti nemmeno Samantha Cristoforetti dalla Luna aveva questo ritardo, però vabbè, forse sei sulla Luna, non ce lo stai dicendo, sei un astronauta che sei sulla Luna. Sì, davvero, ma penso che infatti questa è la tecnologia di Radio Stonata. Esatto, comunque posso aggiungere solo una cosa velocissima? Sì, dici sì, che non ho fatto in tempo a dire, proprio veloce, che ci sono un branco di cavalli selvatici nel parco dell'Aveto, uh-huh, che da più di 20 anni vivono lì e hanno proprio un loro habitat, sono proprio cavalli selvaggi, una cosa che è unica assolutamente in Italia, e insomma che ci sono anche delle escursioni per poterli andare a vedere, vengono organizzate, si chiama Wild Horse Watching, uh-huh, che è un'esperienza davvero commovente, io l'ho trovata veramente emozionante e commovente. Io tenevo ad aggiungerlo. Sara, io ti ringrazio, ora come vedi il collegamento è pure migliorato, sembra che siamo vicini. Grazie Sara, sei stata gentilissima e fantastica nel tuo racconto, e ci ritroveremo presto qui su Radio Stonata, immagino con un altro racconto come tutti gli altri amici di nonsoloturisti.it. Grazie Sara. Grazie.